La finanziaria va, si ferma il governo. Oggi si apre una crisi di sfiducia nei confronti dell'esecutivo da parte del presidente Dini e da parte del senatore Bordon. Hanno riconosciuto che questo governo è inadatto alle esigenze del paese, hanno votato la finanziaria per senso di responsabilità, anche se è una pessima finanziaria, come dichiarato espressamente dallo stesso presidente Dini. Credo che questo costituisca quello di oggi una svolta politica che non soltanto indebolisce il governo, ma credo ne decreta la fine politica. Il Presidente del Consiglio dovrebbe prendere atto, anziché esultare, dovrebbe preoccuparsi perché con oggi si segna una pietra tombale per la vita del suo governo.